l'avvocato, il politico, il dottore, oppure diventare come il nonno professore. Io rispondevo a tutti, non voglio fare niente, e tutti quanti in coro, ma che bambino deficiente. Io me ne stavo zitto, ma quella mia vocina di non ascoltare ma cammina. Mettiamoci d'impegno, facciamogli vedere quello che da grande voglio fare. Voglio diventare Babbo Natale, voglio tutti gli elfi comandare, voglio lavorare. Cambiare una velina ad ogni colazione. E voi che dicevate, hai la faccia da perdente, nella vita tu non sarai niente. Di voi non me ne importa, ferito con orgoglio, seguite tutti quanti un grande sogno. Voglio diventare Babbo Natale, dar la vita anche a carnevale, poi giocare insieme alla Befana sette volte a settimana saltellando tra gli blu. Voglio tutti gli elfi comandare.